A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo parliamo di pallavolo femminile e non solo, perché nella A1 femminile del volley nostrano si sta sviluppando un'esperienza del tutto particolare. Siamo a Conegliano, provincia di Treviso, la Zoppas Industries Conegliano è impegnata nel campionato di A1 femminile italiano. Presidente Giovanni Lucchetta, intanto benvenuto a bordo campo. Direi che queste ragazze intanto dovrebbero vincere qualche partita in più, perché 10 punti in classifica non sono tantissimi, ultimo posto ho visto. Certo, intanto buongiorno a tutti. Sì, purtroppo i risultati quest'anno non sono brillanti come magari lo sono stati lo scorso anno, però purtroppo questo è lo sport e le cose a volte vanno per il verso giusto, a volte no, e quindi di lavorare e di recuperare il terreno perduto. Eh sì, anche perché a Conegliano e nella società di Giovanni Lucchetta il risultato davvero non è tutto, non lo diciamo solo per spirito degubertiano che fa sempre piacere, ma anche perché, presidente, voi siete l'unica società italiana, almeno per quello che ne posso sapere io, che avete una struttura esplicitamente dedicata alla comunicazione sociale, cioè a comunicare i valori che Conegliano vuole incarnare attraverso questa squadra di volley femminile. Come è nato questo esperimento, che è del tutto singolare, almeno in Italia? Il nostro orientamento è sempre stato molto, molto incline a dare spazio e dare evidenza al valore sociale della nostra esistenza. Non siamo qui solo per trasmettere così emozioni al pubblico, ma anche per comunicare, per testimoniare valori in cui crediamo davvero. E per farlo abbiamo messo in piedi una piccola struttura che è fatta di due persone, il dottor Battiston che è in collegamento con noi e la Gabriella Ghinelli, che si occupano esplicitamente di comunicazione sociale, cioè di rendere evidenti quei valori in cui crediamo e che crediamo facciano bene ai giovani e alla nostra società. Come è venuto in mente di dar vita a questo progetto e in cosa si concretizza? Allora, intanto la nostra società mette al primo posto il pubblico. Noi crediamo che l'unico modo per misurare il successo reale di una società sportiva sia il pubblico. A parte il mondo del calcio, che è un mondo totalmente diverso dal nostro, credo che ogni società sportiva si debba confrontare con questo obiettivo. Detto questo, abbiamo attivato tramite questo gruppo di lavoro della comunicazione sociale un progetto denominato Impresa, che contiene 5 mini progetti, tra i quali uno riservato alle scuole. Il dottor Battiston, che è uno specialista del settore, ha individuato alcune fotografie che rendessero bene così evidenti così, le problematiche dei giovani, mettendoci anche una frase, che è la frase poi diventata titolo di un tema di italiano, che dice: bellezza salvami ora che sto precipitando nella cieca insensibilità. Abbiamo coinvolto le scuole, l'assessore, gli assessori di riferimento, e abbiamo esposto questo cartellone grande, perché è 4 metri per 1,20 m circa, nelle 3 scuole principali di Conegliano, 3 scuole superiori. Parlando poi con gli insegnanti è stato promosso un dibattito, e alla fine del periodo di riflessione si è stato fatto un tema. Abbiamo raccolto questi temi e li abbiamo premiati. Altrettanta attenzione c'è da parte del vostro club per le eccellenze del territorio, no? Per esempio, state pensando di sviluppare un progetto per tutti i laureati con il massimo dei voti, per farli sentire sempre più parte integrante della comunità. Certo, l'idea è partita perché a me e alla società in generale non piace così percepire che solo gli sportivi, solo perché sono capaci di giocare, sono quelli osannati e visti, che hanno visibilità e popolarità. A noi piacerebbe che la società fosse in grado di dare evidenza a tutte le umane eccellenze, soprattutto dei giovani. E lo sport è solo una delle forme espressive in cui si può esprimere l'eccellenza. E anzi, devo dire che magari quei giovani che hanno particolari talenti, che sono poi la classe dirigente del domani, che sono le persone che hanno più ingegno, più testa, più anche più spessore, magari spesso restano nell'ombra perché sono capaci così, non sono capaci di giocare a pallone magari, no? Ecco, a noi questa cosa non piace e abbiamo cercato di fare in modo di trovare gli strumenti per dare evidenza all'eccellenza in generale. Quindi, per quale motivo deve essere riconosciuto a Conegliano per la strada un ragazzo che gioca bene a pallavolo, una ragazza che gioca bene a pallavolo, e non un ragazzo che magari si è laureato col massimo dei voti o che ha fatto un percorso, ha fatto delle ricerche, ha pubblicato delle sulle riviste specializzate, delle tesi, eccetera. E quindi noi, nel nostro piccolo, con i nostri mezzi a disposizione, cerchiamo di dare evidenza a questo, e tra questo rientra una serie di iniziative, tra i quali, per esempio, coinvolgere tutti i laureati col massimo dei voti. Professor Mauro Battiston, psicologo, colui che insieme a Gabriella Ghinelli sta tentando di realizzare queste diverse fasi del progetto Conegliano. Le ragazze della squadra di volley come l'hanno presa? Perché un conto se ti chiedono di fare del tuo meglio per realizzare più punti e schiacciare, ricevere in bagher al meglio delle tue possibilità, ma anche avere un ruolo per la comunità che si rappresenta credo sia una responsabilità in più per l'atleta, no? Sì, intanto buongiorno a tutti. Sicuramente è una responsabilità in più, ma come dire, questo rende anche un atleta una persona in modo ovviamente molto più completo. E in fondo quello che ci sta guidando è un senso di responsabilità, che ciò che sta accadendo a livello sociale non sempre è così positivo. E quindi anche le ragazze si stanno coinvolgendo in questo tipo di riflessione, e credo che anche per loro sia un'apertura come persone al mondo dello sport, non solo come atlete. Ecco. La risposta del pubblico di Conegliano invece, so che avete tra l'altro, mi raccontava il presidente, un pubblico molto diversificato tra giovanissimi e poi invece appassionati pensionati, quindi di una certa età, e che quindi è anche bisogna cercare un filo rosso per coinvolgere tutti, no? Sì, guardi, la cosa è veramente interessante proprio per questa diversità. In fondo è come che noi abbiamo in un sistema microsociale rappresentate un po' tutte le generazioni. Però vede, la sensibilità è forte perché i temi anche che noi affrontiamo non riguardano per esempio solamente il mondo degli adolescenti, il mondo dei giovani. La crisi un po' etica che ci sta attraversando riguarda tutte le generazioni, soprattutto anche il mondo degli adulti, devo dire, non sempre i comportamenti sono così positivi, no? Da parte loro. E quindi questa collettività sostanzialmente si sta mettendo insieme, sta respirando lo stesso clima e sta respirando questa responsabilità di dare valore alle cose che sono veramente positive, le cose che veramente ci rendono persone speciali. Allora, parlavamo di giovanissimi, in collegamento con noi c'è anche Mirjana Koskoška, 18 anni, quarta liceo, che è la vincitrice proprio del concorso promosso dal Conegliano Volley, Bellezza salvami ora che sto precipitando nella cieca insensibilità. Mirjana, benvenuta a Bordo Campo. Grazie, grazie. Allora Mirjana, ti aspettavi di essere tirata in ballo con un tema e poi addirittura di vincere? Quello, complimenti quasi scontati da parte di una società dei volley. Insomma, magari dovrebbero essere anche altre le istituzioni sul territorio capaci di stimolarci, di stimolare voi giovani. Allora, sinceramente no, perché il mio tema è stato un po', diciamo così, crudo, un po' duro. Anche le parole che ho usato un po' toni più accesi. Sapevo che gli altri l'avrebbero fatto un po' sul tema della sensibilità, invece io ho giocato più di, diciamo, di razionalità, e quindi ho deciso di usare toni più decisi. Ho fatto un tema molto realistico, secondo me, però sinceramente non mi aspettavo di essere tra le finaliste, insomma, tra le vincitrici. Ma sei anche una tifosa di Conegliano, spero. Spero che la domenica, insomma, trascini qualche tuo amico in tribuna. No, non avevo mai visto la partita di pallavolo, sinceramente. Presidente Lucchetta, innanzitutto credo che abbiate conquistato almeno una tifosa in più, perché credo che da oggi Mirjana sarà sugli spalti, no? Promesso Mirjana, sì? Sì, beh, mi è piaciuto tantissimo guardare la partita, perché io sono proprio una frana in pallavolo. Infatti ho visto queste ragazze che saltano 2 metri e ho detto, io questa cosa mai riuscirò a farla. Però insomma... veramente sì. Però ammettiamo che la penna gira bene, diciamo così. Ecco, presidente Lucchetta, tifosa conquistata in più, ma quali sono i prossimi obiettivi del vostro progetto? Francamente devo dire che quando ci siamo trovati qua, adesso dove sono seduto io in questo momento, a leggere i temi, eravamo 5-6 persone che lavorano in questa società e siamo rimasti senza parole leggendo i temi. E abbiamo detto, ma non è possibile che questa cosa si chiuda con una premiazione, come fosse, sarebbe come curare un tumore con l'aspirina. Quindi dobbiamo fare qualcosa di più per dare evidenza a questa grande energia che è venuta fuori da questi temi. Tenete conto che sono una sessantina, di cui 30 sono davvero eccellentissimi, e ne abbiamo potuti premiare solo 8 perché le nostre risorse erano queste, il concorso era questo, però erano veramente lavori eccellenti. e abbiamo detto che non è possibile che questa cosa muoia qua, tant'è che abbiamo cominciato a far vedere queste cose in giro, a dire beh, cosa facciamo? Allora la prima cosa che ho voluto fare, proprio per un piacere personale, è stata quella di conoscere questi ragazzi, e li ho invitati tutti qua all'arena un pomeriggio per ringraziarli, perché mi hanno insegnato davvero molto, e perché ormai io ho 53 anni e il linguaggio che posso usare non è quello che apre i cuori dei giovani, quindi ho chiesto a loro che mi aiutassero davvero a parlare con i giovani, perché non sono troppo vecchio o troppo stanco per impegnarmi in questa direzione, e quindi sentivo il bisogno di avere anche il loro aiuto, cosa che mi hanno dato, e adesso stiamo pensando magari anche di fare qualcosa, di raccogliere questi temi in un libro, in qualcosa, perché deve restare testimonianza di queste righe veramente devastanti e sconcertanti, perché è un mondo che, cioè, è uscito uno spaccato dei giovani che magari noi genitori non conosciamo, e quindi ho sentito veramente il piacere, il gusto, l'onore anche di aver vissuto in prima persona questa cosa, e vorrei che fosse condivisa da molti. E allora, grazie al presidente della Zoppas Industries Conegliano, Giovanni Lucchetta, grazie al dottor Mauro Battistone, grazie e complimenti anche a Miriana Koskoska e a Gabriella Ghinelli, che è l'altra parte attiva di questo progetto. Beh, l'augurio è quello di continuare su questa strada, e hai visto mai che questo progetto non sia anche spinta poi per la squadra, per vincere qualche partita in più? Grazie a tutti voi. Grazie a voi. Grazie. A bordo campo. And calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys. Londra chiama, lo sentite in sottofondo, nel senso che dopo Vancouver 2010 ormai si punta decisamente alle Olimpiadi estive di Londra 2012. Lo fa anche il CONI, e con un occhio e qualcosa in più, direi, a contenere le spese. Attenzione appunto alle spese per i telefonini, tagli a convegni, alle consulenze esterne. Insomma, il nostro Comitato Olimpico Nazionale vara misure antispreco per limitare i costi e razionalizzare le risorse, certo non ricchissime in questo momento, dello sport nazionale. Ne parliamo con il segretario nazionale del CONI, Raffaele Pagnozzi, ospite a bordo campo. Benvenuto, segretario Pagnozzi. Allora, come nasce quella che è stata definita come la finanziaria del CONI? Diciamo che è il culmine di un'attività che abbiamo iniziato da tempo, tesa appunto a far sì che le risorse, che si assottigliano sempre di più, perché anche noi viviamo il momento di crisi che vive non solo il nostro paese, ma diciamo tutto il mondo, quindi diciamo da tempo abbiamo dovuto rimodulare un po' i nostri budget, considerando che già lo scorso anno abbiamo avuto un taglio di quasi 25 milioni d'euro, che se considerate facendo salve le spese incomprimibili, il personale e tutto quello che chiaramente non può essere ritoccato per motivi di funzionamento o anche per motivi contrattuali, vale il 10% di tutti i contributi che vengono dati alle federazioni, quindi abbiamo già iniziato. Abbiamo voluto in questa occasione, tenendo conto che quest'anno subiremo un taglio forse leggermente inferiore, non ancora completamente definito, rispetto a quello dello scorso anno, quindi un ulteriore taglio su un taglio già avuto, abbiamo cercato di mettere insieme tutto quello che è necessario e giusto per far sì che l'attività sportiva venga in qualche maniera salvaguardata, perché evidentemente i soldi che vanno al mondo dello sport servono a far funzionare le strutture, ma servono anche ad alimentare lo sport. Noi cerchiamo di comprimere al massimo tutto ciò che è legato alla parola funzionamento, per far sì che almeno dal punto di vista così dell'obiettivo ci sia la possibilità di tutelare l'attività sportiva nella sua interezza. Ci fa qualche esempio pratico, segretario, per capire? Fare riunioni dei consigli federali non durino due giorni, ma che magari vengono concentrati in un giorno solo, per evitare pernottamenti, per evitare spese che poi si gonfiano, i rimborsi passo e tutto quello che comporta, ridurre al minimo o indispensabile quelli che sono previste dagli statuti, le commissioni, i gruppi di studio, a volte sono anche importanti, sono anche strategicamente, come dire, indispensabili, però in questa fase si lascia soltanto al volontariato, a chi può organizzare questi tipi di organismi senza alcuna spesa, cercare di ridurre al minimo indispensabile l'uso di telefonini, e anche dal punto di vista delle trasferte, far sì che partano insieme agli atleti soltanto quelle figure indispensabili all'effettuazione di quella gara, quindi dare tutto un insieme di misure che comprimano quanto più possibile le spese che non sono indispensabili per l'attività sportiva. Parlavamo dei finanziamenti garantiti allo sport italiano, ci sono sempre in ballo i 450 milioni di euro che sono stati appunto messi sul piatto della bilancia dalle decisioni governative dell'esecutivo. Ecco, questo finanziamento nei prossimi anni che fine farà? C'è il braccio di ferro sempre tra il CONI e il sottosegretario Crimi, il sottosegretario con delega allo sport, che vorrebbe questo finanziamento più flessibile, mentre voi lo vorreste in qualche modo garantito. Ecco, da questo punto di vista si trova una quadratura del cerchio? Guardi, non c'è nessun braccio di ferro, voglio dire, anche adesso con le recenti Olimpiadi di Vancouver siamo stati, il sottosegretario Grimi è venuto ad assistere alla cerimonia di apertura e alle prime gare, quindi abbiamo anche parlato di questo, non c'è nessun braccio di ferro, ci sono delle considerazioni legate anche alla possibilità di realizzare quello che sarebbe il sogno nostro di tutti gli sportivi, vale a dire un finanziamento automatico, perché noi per quanto riguarda il mantenimento dell'attuale budget non sappiamo, per dire, già il prossimo anno, che è l'anno preolimpico, su che disponibilità possiamo fare i conti, e quindi avere uno strumento che un po' era quello che era legato al Totocalcio una volta, vale a dire la certezza di un finanziamento automatico, per cui qualunque siano le situazioni, qualunque siano i meccanismi, le dinamiche della finanza pubblica, si sa e si può anche programmare sulla base di certezze automatiche. Mi rendo conto che è una nostra aspirazione, è un nostro sogno, mi rendo conto che ci sono difficoltà operative per metterlo in pratica, però mi pare che complessivamente, come del resto lo stesso sottosegretario Crimi ci ha sottolineato, sicuramente sono maturi i tempi per mettere allo studio questo tipo di iniziativa e penso che forse siano anche maturi i tempi per arrivare ad una conclusione di questi studi. È un segnale quello che volete lanciare in questo modo anche alle federazioni alla luce di risultati non brillanti recentemente acquisiti? Faccio riferimento alle Olimpiadi di Vancouver, ai mondiali di atletica di Berlino e di Doha indoor, tanto per citare risultati non soddisfacenti. Adesso, al di là e tutti i risultati dello sport vanno anche valutati in un gioco molto molto più lungo e oltretutto bisogna anche considerare che è una tipica attività quella dello sport in cui si vince e si perde. Il mondo dello sport italiano comunque, al di là di quello che può essere l'andamento di una manifestazione, è sempre tra i primi al mondo. No, per quanto riguarda il segnale, diciamo che è più che altro un segnale sia al nostro interno, all'esterno, di consapevolezza di un momento che voglio dire di crisi che tocca tutti e che quindi tocca anche il mondo dello sport, quindi siamo consapevoli di questo, ce ne vogliamo far carico come il resto della società e quindi in questa maniera abbiamo sintetizzato in questa manovra questa finalità che è appunto quella di dire sì, facciamo parte tutti di un mondo che è in crisi e quindi anche noi adeguiamoci a questa crisi, l'avevamo già fatto ma l'abbiamo voluto in qualche maniera sintetizzare in un documento unico, in una manovra unica. Avete già quantificato quale potrebbe essere il risparmio potenziale da queste misure e quali sono nello specifico magari alcune federazioni che in particolare necessitano di un aggiustamento in questa direzione? Guardi, noi proprio per far fronte al momento che attraversiamo avevamo già dato comunicazione alle federazioni che avrebbero avuto a disposizione in modo prudenziale l'80% dei finanziamenti dello scorso anno, quindi diciamo che in questo momento le federazioni hanno già avuto un taglio del 20% dei trasferimenti che il CONI dà alle federazioni. Vedremo se riusciremo a recuperare qualche cosa per dare un saldo che attenui un po' l'impatto negativo, quindi comunque questo rappresenta un qualche cosa che finirà col pesare sulle federazioni intorno ai 15-18 milioni d'euro, quindi è più che altro, o al di là di quello che può essere considerato in termini numerici, è più che altro un imperativo alle federazioni di trasferire i costi dal funzionamento alle spese per lo sport. È chiaro che tutto questo avviene le federazioni in maniera non uguale, perché ci sono federazioni che hanno risorse proprie in maniera consistente e quindi sui trasferimenti del CONI fanno affidamento, non dico in maniera marginale, ma in qualche modo non sempre prioritario. Ci sono invece altre federazioni che hanno dai finanziamenti del CONI un peso intorno al 95-97-90% del budget, quindi è chiaro che per queste le difficoltà aumenteranno ancora di più, però era un segnale in cui tutti ci si ritrovino e tutti adottino politiche uguali per far sì che quelle che sono magari più favorite, perché sono più popolari, perché hanno più iscritti, perché hanno magari disponibilità di sponsor, facciano le stesse cose di quelle federazioni che invece purtroppo possono fare affidamento soltanto sui finanziamenti del CONI. Poi bisognerà anche vigilare, segretario Pagnozzi, perché altrimenti poi succede che magari la scena dei dirigenti non salta e magari invece quello che è costretto a tirare la cinghia è l'atleta con potenzialità olimpiche. Beh, devo dire che lo stiamo facendo, non è che non ci sia un esercizio di vigilanza, credo che anche da quel punto di vista raggiungendo livelli operativi piuttosto importanti. Ci sarà certamente una condivisione e siccome purtroppo, per fortuna, secondo i punti di vista, le federazioni si conoscono l'un l'altra, sarebbe difficile che a qualcuno venga consentito quello che ad altri non possono fare. Segretario Pagnozzi, è una decisione questa che, se è conseguenziale a quanto già avevate preannunciato, arriva di fatto a poco più di 2 anni da Londra 2012. Potrebbero esserci delle conseguenze pratiche in vista del cammino verso l'Olimpiade più attesa, che è comunque l'edizione estiva? Allora, sicuramente che l'orizzonte non è così sereno. Nel senso che noi, non sappiamo le disponibilità sul 2011, che è l'anno fondamentale per le Olimpiadi, ma questo serve anche in quella direzione, perché se dovremo chiedere allo Stato qualche sacrificio in più, credo che sia certamente più confacente andare a chiedere, sapendo che abbiamo messo in atto tutto quello che era giusto fare, essendo partecipi anche noi del momento di crisi che attraversa il paese. Quindi credo soltanto con le carte in regola si possono poi fare delle richieste. Sarebbe assurdo andare a chiedere, avendo in qualche maniera conti non all'osso, quindi da questo punto di vista anche in questo ambito la funzione è importante. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia, vi ricordo che potete riascoltarci così come tutti i programmi di Radio 24 dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Con le piccole e grandi storie dello sport torniamo domenica prossima sempre alle 14.30, ma vi ricordo anche che ogni sabato alle 13.15 c'è l'appuntamento speciale con A Bordo Campo Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.